bruciamento anche a me, ne? E fine di bruciami se prendi il socio. E buonasera, perché sono nuovo, sono Gianfranco la scimmia, mi chiamo. Ma io spingo con la chiave, ti faccio mollare. Dov'è tuo frate? Cristia, a Valiare, dov'è Antonio, ho detto? Ciao Cristino, sono. Ma uscendo sto con questo microfono. Beh, già va bene Crist. Cosa stai utilizzando? La K? Sono fatto. Ah, no, appena appena, ma non prendere in considerazione questa radio, che questa è un vecchio CB, un Seal SSB 23 canali, quindi non è che sia affidabile. Poi sono in baracca e sto facendo dei collegamenti per un inverter, per il camper, capito? No, adesso sei un pochino saturo, già si comprende, però va in saturazione. Adesso saturo sono. No, adesso va bene, lascia così. Andà bene qui, sto saldando, sto facendo dei capicorda, dai, per l'inverter, che sono un po' impegnato, sono all'ascolto comunque, dai. Dai, buon lavoro a capo, dai. Ciao, sì, ciao, ciao. Gazzero Guru.